dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Se facessimo un po' così anche il riscaldamento, cioè soltanto vedere la partita mi dà, cioè mi mette freddo. Sai, cioè, sai quando c'hai quei brividini? Sì. Io ho i brividi nella schiena. La roba è voglio dire, è un'immagine veramente brutta da vedere in questa serata. Comunque fa freddo lì, fa freddo un po' dappertutto. A Roma non tanto, sono tutti sudati. Guarda, l'arbitro con le maniche corte, con i pantaloncini corti. Tu dici che a Roma si sta bene. Roma si sta abbastanza a prescindere. Bene. Freddo Torino, caso. C'è solo la buona notizia. Fra un po' è Natale, quindi arrivano i regali, le feste, si fanno le ferie, ci si riposa, eccetera, eccetera. Poi per il neve, resto tutto neve, bene. Neve a manetta, tanto che bisogna mettere il solito pallone arancione, che poi in realtà non si vede perché è pallido, un arancione una volta non è più fucsia. Non c'è più l'arancione di una volta nel pallone. Una volta erano belli arancioni convinti, decisi, adesso non si vede un tubo. Vabbè, insomma, comunque quello che sta accadendo ovviamente sono queste due partite che tu mi ricorderai in questo momento all'istante. Torino-Lazio 0-0, Roma-Parma 1-0, gol di Lamela. No, ma che gol! Che gol di Lamela! Tra l'altro, golletto, no, normale. Il classico gol di Lamela. No, volevo enfatizzare la situazione, anche perché in realtà hanno sbagliato in continuazione, stanno continuando a sbagliare gol fatti, no? Totti con una punizione. Sì, c'è stata una punizione di Totti, si è infilata proprio, sai dove c'è il 7, l'incrocio dei pali? Però interno, quindi la palla poi è finita esattamente dietro le spalle del portiere e niente da fare. Parma non doma comunque, perché è pericolosa ancora in attacco. Vabbè, possiamo raccontarvela per un sacco di tempo, però ma vogliamo parlare di quel colpo di testa di Paletta? Parliamo di quel colpo di testa di Paletta. Se proprio non hai meglio di niente, nient'altro da dire, parliamo anche di questo. Colpo di testa di Paletta è una violenza inaudita. Ha preso la traversa in pieno mentre c'era Stekelenburg che guardava solo la palla, non poteva farci niente. Più o meno dal limite dell'area. Tra l'altro non l'ha neanche salutata. Lei si è un po' offesa mentre passava quella palla. Sono quelle cose che poi te le porti avanti per mesi. Non riesci a uscire. Che dà un fastidio veramente incredibile da questo punto di vista. Vabbè. Visto che ci siamo, diamo un riassuntino soltanto per quelli che sono interessati al fantacalcio, a tutto quello che riguarda il fantacalcio. Su quello che è successo oggi, e quindi partiamo da subito dai gol, perché tanto i risultati ormai si sanno, mancano soltanto questi due: 1-0 ricordiamo per la Roma e 0-0 ancora Torino-Lazio, che è il Torino che sta bloccando sulla neve, le sta praticamente incastrando, sta incastrando la grande Lazio. Sì, anche perché la Lazio è in 10, non l'abbiamo detto, l'hanno detto, è stato detto al GR, però la Lazio è in 10, sta giocando al quindicesimo del primo tempo in 10. Non è colpa del Torino, no, non è colpa del Torino, neanche la neve è colpa del Torino. Certo, comunque sta di fatto che la Lazio non riesce a sbloccare la situazione. Questo è vero. Quindi andiamo soltanto su quel quanto riguarda il fantacalcio, su tutti quelli che in questo momento sono legati al fantacalcio, ci possono dire che la Fiorentina ha segnato con Aquilani, Cuadrado e c'è l'autorete di Cassani del Genoa, mentre il Genoa ha segnato con Portanova e Antonelli, doppietta di Balotelli del Milan. Per quanto riguarda Napoli, anche in questo caso c'è una doppietta che è di Cavani più il gol di Pandev, autorete di Cannavaro del Napoli. Cavani 7 pulito, forse 7 e mezzo, forse 7 e mezzo, 7 e mezzo, sai, più 6 la doppietta in trasferta chiama 8 automatico, quindi quella in casa chiama 7 e mezzo, 13 e mezzo via, così, se non l'ho preso. Vabbè, quindi dai. Abbiamo detto Pandev, per Cannavaro c'è un'autorete, quindi l'Atalanta ha segnato un solo gol con Denis. Pescara-Chievo invece 2-0, il gol di Stojan e di Terò, oggi alle 12:30 Siena-Cagliari 0-0, nulla da segnalare, d'altronde che ti puoi aspettare la segna Cagliari? Niente, se la Cagliari, niente. Diciamo che mi manca la parte più ritmata di quella brasiliana, che è un po' quello che è accaduto oggi, nel senso che oggi noi abbiamo cercato di capire il perché, in qualche modo comunque dove eravate voi quando ci sono state le grandi partite, i grandi scontri tra Italia e Brasile. Tra poco Italia e Brasile arriverà, non serve assolutamente nulla se non a mettersi in mostra. Tra l'altro mancheranno anche dei giocatori che poi Baggio non gioca, ad esempio. Baggio non gioca. Poi Del Piero ha detto che non prende l'aereo per venire a fare Italia-Brasile, quindi niente. Anche se un po' così, mi dispiace. Totti ci sta pensando. Totti ci sta pensando, è lì che riflette, però. Assolutamente. Anche Zoff ha detto che ci sta pensando. Allora, purtroppo deve andare questa notizia. Paolo Rossi, che è ancora la persona, il calciatore italiano più noto in Brasile, lo sai questo? No, non lo sapevo, davvero. Anche perché mi sa che è l'unico che gli ha messo 3 gol al Brasile. Dice che gli è rimasto il segno? Secondo me gli ha fatto l'hat-trick, deve essere l'unico giocatore che ha fatto hat-trick alla nazionale brasiliana. Puoi andare a verificarlo, ovviamente, perché questo ci riempie di gioia, oppure verificatelo voi che siete a casa e che state bighellonando inutilmente, smanettando, guardando un po' il Torino, guardando un po' la Roma, vi annoiate sistematicamente su tutte e due, no? E quindi potete andare a cercare. È vero che Paolo Rossi è l'unico che ha fatto hat-trick, i 3 gol al Brasile, è l'unico giocatore in questo caso, è sicuramente l'unico italiano. Sì, sicuramente italiano, l'unico italiano. Non lo so, ma magari Piola una volta l'ha fatto. 348-238-6666 349-238-6666 349-238-6666 e l'altro era invece 800-24-00-24, dove voi potete telefonare, anche perché ci avete mandato i messaggi. Molti sms sono arrivati oggi pomeriggio, abbiamo avuto anche dei messaggi sulla nostra pagina Facebook, Dai e Vai con la E commerciale su Facebook, e abbiamo fatto questa domanda: qual è il vostro Italia-Brasile, come vi ricordate, dove eravate in occasione di quell'ultimo Italia? È un momento importante della vostra vita, è un momento importante della nostra vita, insomma, sicuramente ci ricordiamo dove eravamo quando ci sono stati grandi scontri tra Italia e Brasile. Per esempio, mi ricordo quello del luglio 1970, ci mandano sul 349-238-6666, in Messico, con il nostro padrone. Il sabato mattina, allora si lavorava 44 ore settimanali, ci disse che se vinceva l'Italia il lunedì ci pagava la giornata e stavamo a casa. Invece nulla di tutto questo, purtroppo, insomma. Mentre Monica si ricorda che era studiare per l'orale della maturità, non si capisce bene quale dei suoi Italia-Brasile ha preso in considerazione, però Monica si sente da come parla, che giovane. Era 82, dici? No, ma che sì. Addirittura sì. 94? 94, era giovane. Monica 94. Come è andato, scusa? Cosa che dice? Era studiare per l'orale della maturità. Beh, sai, luglio, Monica. Il mondiale a luglio. Quindi. Monica, ma c'è Italia-Brasile, tu studi per l'orale, per la maturità. Lei studiava lingue portoghese, quindi. Vabbè, scusa, cioè, ma che modi sono, vabbè. Attenzione, perché tanto abbiamo una punizione ancora in questo caso, ed è sempre Totti sulla palla, pronto alla bisogna, pronto a colpire, ovviamente. È un po' affaticato il ragazzo. Beh, sì, c'è Mirante che urla alla barriera, lo vuole spostato un pochettino più verso destra. Ero a Budapest. Davvero? Non io. Sempre, cioè, in questo caso Rosa Maria ci dice che ero a Budapest. Però prima c'è la punizione di Totti. Prima c'è la punizione di Totti. Eccola qua. Adesso arriva, ecco qua, vai. Totti! Eccola qua, l'abbiamo seguita e c'è stato il gol. Strameritato! C'è stato il gol. Francesco Totti, 226 grande, in Serie A, 17 al Parma, 11 stagioni. Vabbè, 17 al Parma è bruttissima. Cioè, che cosa? 17 gol a quei citroni del Parma. Che 17 proprio al Parma. Tra l'altro, scusa se non sbaglio, il nostro tifoso oggi pomeriggio ha detto: non abbiamo mai vinto dal 53. No, ha detto che ne abbiamo vinta una. Sì, sicuro una l'abbiamo vinta. Degli anni 50, però sì. Insomma, comunque, e non hanno mai vinto. Beh, adesso due pappine, devo dire la punizione da fuori aria, 4 metri, 3 metri fuori aria, tirata bassa, ovviamente tutta la barriera si è alzata, è passata sotto e pipirimerlo, mi verrebbe da dire. Esatto, è passata in realtà, è una tirata molto angolata ed è passata sotto Biabiani, che era l'ultimo della barriera. Infatti c'è Mirante che mentre cade per terra e vede la palla infilarsi con la mano verso la barriera, ma dice: ma dai, ma porca miseria, allora, ma dove ha detto vai? Qualcos'altro, ha detto qualche cos'altro. Però ma porca allora eravamo rimasti? Ero a Budapest davvero? E tutti ci facevano i complimenti. Vedi che se la ricorda in qualche modo, ero a Budapest e tutti facevano, va bene. Pasquale invece dice: mio padre, attenzione, questa è tosta, questa è veramente tosta. Ricordiamo 349-238-6666 oppure 800-24-00-24 per i vostri contributi su Italia-Brasile. Dove eravate? Cosa ricordate? Ascoltate questo di Pasquale. Mio padre che chiude la TV al 2-2. E quindi mi verrebbe da dire Italia, cioè Spagna 1982, che spegne la TV al 2-2. Io che per la prima volta a 10 anni vedo le 00 sull'orologio. Questo è il suo ricordo, quindi per lui è finita. Pasquale, ecco, io spero abbiamo vinto. Spero che sia scappato di casa, cioè il papà che gli spegne la radio, la televisione sul 2-2, e 2-2 è veramente una roba, direi, devastante da questo punto di vista. Non potresti più riprenderti, vabbè. Comunque, Nicola, pronto? Pronto, sì, sono qua. Volevo dire, io me ne ricordo due. Resta fermo con noi, Nicola, non ti muovere. Fai mente locale su quelle due, basta la prima. Comunque, nel frattempo, prima ci sentiamo il traffico. Ciao. Dai e vai. Strade in diretta. Le uniche difficoltà per chi è in viaggio sono sempre legate al maltempo. Sono in atto forti nevicate sulla 7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Serravalle Scrivia ed è in atto la regolazione del traffico per i mezzi pesanti. Nevicate sull'Alto Piemonte, nel Torinese tra Piemonte e Liguria. Nevica a quote basse anche in Lombardia e a Milano città. Attenzione a chi è in viaggio lungo le autolaghi tra Milano e Como e tra Milano e Varese. Piogge sul resto del nord, in Toscana e ora anche in Campania. Ed è tutto, massima prudenza. Buon viaggio. Dai e vai, non è solo calcio. Vedi, Nicola, siamo tornati subito da te, quindi sì. Scusaci, c'è un attimo. Pensavo che era solo Cruciani che faceva così, invece no. Cioè, no, cosa abbiamo fatto? Ti ha dato del Cruciani. Che era solo Cruciani che interrompeva per il traffico. Ah, chiamata. No, invece, però io non ti ho ancora detto tutte le parolacce che ti dice. appunto. Se vuoi, adesso dipende da quel che dice. Stai attento, Voi avete parlato oggi sempre di Sky, no? Però dovete ringraziare più la Rai, se qualcuno vi ascolta come me che lavora. Vabbè, però questo deve solo ascoltare la radio, perché se si trova con una televisione. Certo. In questo caso, vabbè. Allora, dici allora, Italia-Brasile. No, dicevo, nell'82 io avevo 16 anni, 17 anni, l'abbiamo visto in compagnia e anche noi con i fischietti. Con i fischietti che fischiavamo come il pubblico, no? Ah, ho capito, forse. E c'era un mio amico che si stava addirittura strozzando con uno di questi fischietti. L'abbiamo dovuto salvare noi con delle pacche sulla spalla. Ma perché l'ha mangiato? Lo stava ingoiando. Lo stava ingoiando, ho capito. Ma dov'eri, scusa, a guardarlo Italia-Brasile? In casa di amici. Amici. Diciamo. E quindi voi vi fischiavate dentro la sala della vostra stanza, non ho capito, dentro la sala. Sì, mentre il pubblico fischiava lo stadio, no? Sempre con questi fischietti. Ho capito. Mentre in Sud America c'erano quelle famose trombette. Sì, certo. Invece in Spagna c'erano i fischietti. Erano in Sudafrica comunque le trombette. Sì, comunque. Sudafrica. Però fammi capire, voi eravate, in quanti amici eravate? 7-8 amici, Brasile, sì, Brasile è appena arrivato subito dopo l'Argentina, no? Dopo la grande prestazione che tutti ricordano di Gentile, no? In questo caso su Maradona, che l'ha annichilito, come si suol dire. Dopo avergli spezzato le gambe, chiaro che poteva fare niente. Altre cose non si potevano fare, però insomma abbiamo portato a casa la partita. Voi vi siete riuniti, Nuova Italia-Brasile, e vi siete visti questa partita tutti insieme. Quanti eravate? Eravamo in 8, poi diciamo, maschi? Come? Solo maschi? Sì, solo maschi. Perché, però con i fischietti. Perché le donne abbiano dato due di picche, diciamoci, certo, è facile, molto semplice. Cioè, hanno detto, ma dai, per figura degli imbecilli così andiamo. No, era una questione scaramantica. Quindi voi siete quelli di niente, soltanto uomini quando c'è il calcio, questa cosa qua. Ho capito. Vabbè. No, poi abbiamo visto anche la finale insieme, no? Semifinale, finale. E anche lì senza signorine. Con lo stesso televisore, perché l'importante è che si aveva lo stesso. Ah, scaramanzia? Ma quindi di scaramanzia 1000, cioè eravate in 8, siete sempre stati sempre i soliti 8 con lo stesso televisore senza donne. Sì, certo. Vabbè, allora ragazzi, grazie per aver resistito, insomma, l'unica cosa che abbiamo. Nicola, ma poi l'analista l'hai pagato molto negli anni successivi oppure ne sei uscito da solo? No. Ecco. Ma le incontri ancora quegli 8? Qualcuno ci siamo incontrati, sì. Però poi per il resto... Ma dopo, quando avete vinto, poi quando siete andati in giro a festeggiare, bandiere, tutte queste cose qua, avete cuccato un po', cioè avete incrociato qualche peperino o no? Certo. Meno male, lo Io spero per voi. Io mi ricordo comunque che ho fatto il mio primo, diciamo, mezzo collasso, diciamo. Ah, però. Avendo fumato solo in quella partita, diciamo, 15 sigarette. Certo. Ah, beh, sigarette, che spavento. Stavo già sudando. Grazie. No, perché aveva 16 anni, sì, Nicola. Cioè, beh, aveva 16 anni, scusa, eh. No, certo. Cioè, era ancora la canna, scusa. Però non fumava quelle al tabacco impoverito, cioè fumava quelle normali, vero? Vabbè. Sì. Ah, ecco, vabbè. Ciao, grazie. Nicola, dell'82, ciao. 16 anni, ti vedi la canna, sei ridicolo. Vabbè, nell'82 però c'era, nell'82 avevo 14 anni ed ero in vacanza a Sant'Anna di Vinaggi. Sì, quella dove c'è l'acqua. C'è l'acqua. Non avevamo la televisione, l'ho ascoltata alla radio e alla fine con gli amici abbiamo fatto i caroselli nel nulla. Nulla più assoluto. E con un freddo allucinante. Il tutto si è ovviamente ripetuto nei giorni successivi con Polonia, Germania e via dicendo. Perché poi dopo in realtà, però dopo il Brasile, diciamolo. Era discesa. No, era discesa. Ah, ma cioè, non aveva preso, cioè, qualcuno si ricorda qualche azione contro la Polonia? Ma sì, dai, Rossi che si inginocchia davanti alla linea di porta e segna di testa. Sì, basta. Vabbè, basta. Solo quello, basta. Sì, voglio dire, poi lo scambio le maglie. Sì, cioè, è vero. Quell'azione, poi già scambiavano già le maglie, che subito dopo. Le maglie erano quelle di cotone, che tutte marce, maserente d'acqua, di sudore. 800-24-00-24, se volete far sentire la vostra voce, oppure 349 per i timidi o soltanto per loro. 349-238-6666 invece se volete mandare gli sms qua direttamente. Sì. Che c'è, cos'è? No, niente, perché avevo letto un sms che dice nell'82 era di pomeriggio, le 00 se le ha viste vuol dire che era nelle Filippine, dice Filippo. No, al 349. Perché mi sa che non era nell'82 quello dello 00. No, era quello che diceva che sul 2-2 il padre gli aveva spento la televisione e quindi era l'82 se si era. Sì, era l'82, sì, per forza, perché poi dopo non ce ne sono stati altri, esatto, da quel punto di vista. Era Pasquale che diceva, mio padre che chiude la TV al 2-2, io per la prima volta. Però io dall'82 ai giorni nostri, io questa cosa qua l'avrei ricordata ogni giorno a Papi, cioè sì, mi hai fatto perdere il 3-2, cioè hai capito, ma ti rendi conto? Sì, cioè, sì. Scappi di casa come minimo, cioè, non li parli più insieme per mesi. Di cioè. Ricordarlo a Papi, secondo me glielo ricorda Papi anche Riccardo, perché dice, ero al mare a Rosetto degli Abruzzi, 8 anni, colonia parrocchiale, 150 ragazzi circa. TV in bianco e nero, trattamento antipediculosi, fatto il giorno stesso con aceto. Ricordo l'odore dell'aceto, ma non i gol. Questo era Riccardo, che era Rosetto degli Abruzzi, in colonia, 8 anni. Ecco, ma questa qua l'abbiamo letta, questa, Italia-Brasile, ricordo meglio, quella che non ho visto, mi riferisco alla finale del 94. No, non l'abbiamo ancora letta questa. No. Era in vacanza in Calabria? Questa non l'abbiamo letta. Una new entry. No, in Calabria è nuova. Ricordiamola allora, 349-238-6666, ero in vacanza in Calabria, avevo 9 anni e non riuscii a seguire la partita per il troppo sonno e me ne andai a dormire. Ricordo che quella notte sognai che la partita era finita 3-2 per il Brasile. Purtroppo il risveglio scoprì che era andata proprio così. Come purtroppo? Beh sì, abbiamo perso nel 94, la finale. Sì, la finale adesso, cioè, in realtà abbiamo perso i rigori. Scusa, c'è Baggio l'ha persa, no? È vero. Perso soltanto lui in questo. Mentre caso. Matteo dice, pomeriggio, mare, una spiaggia affollata al Lido di Venezia ed un ragazzo pieno di sogni e di speranze. Un bellissimo ricordo e una bellissima gioia. Immagino che il ragazzo pieno di speranze e di sogni fosse lo stesso Matteo. Questo era il suo ricordo della partita Italia-Brasile. Avevo 18 anni, ne ho patentato in ferie in Polonia, non capivo niente della telecronaca, diciamo, ma Baggio era Baggio, non servivano parole. Sebastiano da Bassano, vabbè, Baggio era Baggio, non servivano parole, però appunto purtroppo nel 94 ci è rimasta proprio moltissimo, no? Nel 94 registrai un'altra sms al 349-238-6666, nel 94 registrai la partita, ma non l'ho mai più rivista, troppo male, ancora adesso. Mario, allora ascolta. Fatene la ragione adesso, Mario, su. Abbiamo perso i rigori, Mario, ce la puoi fare a vederla, cioè, abbiamo perso i rigori. Sì, è andata a finire, e cos'è successo? Totti? Sì, Totti ha fatto un contropiede di Totti sulla destra, entra in area, colpisce proprio di violenza, il portiere riesce a deviare sull'esterno della rete. Ecco, vabbè. Proprio di pochissimo, proprio di piede, col piede sinistro, si tuffa in avanti Mirante e col piede sinistro riesce a deviare sull'esterno all'esterno della rete, proprio un colpo, chiamiamolo di fortuna, più che di tecnica da parte di Mirante. 36esimo a Roma, risultato 2-0. La partita di Roma la distinguete da quella di Torino, perché quella di Roma è su campo verde, quella di Torino ormai su un campo penosamente bianco, ma proprio bianco bianco bianco. E per fortuna che a Torino ci sono fortuna che a Torino ci sono le serpentine sotto il prato, sì. Poche ma ci sono, ecco, nessuno se ne è accorto, però esatto. Perché c'è, ormai c'è, lì c'è, deve passare lo spazzaneve tra un po', sì, tra l'altro è passato, perché c'è questo quadrato, no, che sì, qualcosa hanno passato con, sì, tipo spazzaneve, la linea dell'area, il cerchio di centrocampo ha meno neve che il resto del campo, quindi vuol dire che qualcosa è successo in quel dell'Olimpico, lo stadio olimpico di Torino. Comunque 2-0 per la Roma e 0-0 fra Torino e Lazio. Lazio in 10 per l'espulsione di Siani, la Roma ha segnato con la Mele Totti. Ecco, vabbè, insomma, sono cose successe. Però adesso dobbiamo cambiare totalmente argomento, dobbiamo andare tutta da un'altra parte, dobbiamo passare e parlare finalmente anche di servizi. Ferma, c'è un momento di un minuto di silenzio lì a Torino, dove stanno pulendo le righe, cioè, con degli spazzoloni. Con degli spazzoloni, dei grandi spazzoloni di un metro, mentre l'arbitro si scaracchia in quel di Roma, cioè proprio si è visto, metteva in mente quando metti il dito sulla narice destra e poi soffi con quell'altra. Comunque a Torino avevano, con degli spazzoloni, hanno spazzolato le righe. Tu hai detto cambiamo del tutto argomento. No, in realtà non cambiamo del tutto argomento, perché sempre di calcio parliamo. Sì. Non stiamo parlando più di Italia-Brasile, ma stiamo parlando di una squadra amatoriale della provincia di Belluno che schiera giocatori di quattro continenti. Quindi tutto sommato è ancora mondiali. Stiamo, hai capito, parlando ancora di calcio. Scusa, possiamo vedere questo corner ancora che sta arrivando del Parma? Perché sai, abbiamo beccato quel gol di Totti, sì, magari, no? Cioè adesso. No, a Mauri niente, no, proprio non succede niente. No. Ne parliamo con Marco Zanella. Pronto, Marco? Buonasera a tutti, ciao. Ciao Marco, come stai? Tutto bene? Sì, un po' sotto la neve, perché qui ha ricominciato a nevicare, ma insomma, cioè, dove, bene, grazie. Qui dove di preciso? A Porcen, ai piedi del Monte Grappa, provincia di Belluno. Eccoti qua. Vabbè, insomma, allora. È un piccolo paesino. Quanti abitanti sono Porcen? Siamo 400 ad essere bravi e generosi, va. 400. Ecco, cioè, voi avete questa squadra amatoriale con giocatori di quattro continenti e tra l'altro, ovviamente, essendo cittadini del mondo, anche di delle più diverse religioni, giusto? Sì, sì, giustissimo. In pratica, che non sono tesserati alla porcenese, ci mancano dall'Oceania e dall'Antartide, il resto abbiamo tutti i continenti, di tutte le religioni del mondo, non voglio dirlo perché ci sono tantissime confessioni a questo mondo, ma senz'altro abbiamo musulmani, cristiani, e poi all'interno del cristianesimo stesso ci sono, vengono praticate varie confessioni. Cattoliche. Ecco, scusa, Marco, voi fate la raccolta di figu, cioè cercate di coprire tutti i continenti tipo figu, e quindi cercate di, per forza, di prendere, oppure sono tutti in grado di intendere di volere di calcio, nel senso sono capaci di giocare? Sono tutti bravi ragazzi che sono ormai insediati nel nostro tessuto sociale, ecco, vicino a Porcenno, comunque nel nostro paese, vicino al nostro paese. Sicuramente noi non facciamo la raccolta di figurine, ma questa cosa è nata in maniera spontanea, sicuramente non è stato un atto voluto ed intenzionale. Ecco. Abbiamo messo insieme un po' quelli che sono i cocci della nostra società e ne è venuto fuori un puzzle multiculturale e multietnico. Quindi è stato del tutto involontario, anche un po' inaspettato, oppure immaginavate poi questo passaggio? No, no, assolutamente non intenzionale, se tenete anche conto che la nostra realtà vive soltanto da 2 anni, quindi è una realtà molto giovane. Sì. E voi che campionato fate? Noi disputiamo il campionato del CSI Belluno amatoriale, la nostra realtà è questa, è piccola, complessa e deve vivere con le difficoltà di tutti i giorni. Il nostro sogno, diciamo, è quello poi un giorno di poter creare una polisportiva, ma ne riparleremo tra qualche anno di questo. Senti, ma scusa, ma Marco, che l'articolo dal quale noi abbiamo in qualche modo tratto poi la notizia parla persino di qualcuno a cui voi avete trovato un impiego, ma anche di altri che sono sfuggiti a condanne a morte, giusto? Ho capito bene? Sì, sì, ci sono certi casi che possono essere definiti come dei casi limite, ecco. Naturalmente noi non siamo datori di lavoro, ma ci siamo prodigati, certo, certo, avete trovato, insomma, per dare una mano a chi aveva più bisogno. Resta lì un attimo con noi, scusa, ma Marco, dobbiamo stare, sai che la diretta è sempre così, no? Quando accadono cose in diretta poi bisogna dare le notizie. 1-0 del Torino sulla Lazio, non so se la cosa ti può interessare. Tifo Atalanta, guarda. Ah, vabbè, non è giornata, insomma, un po' così. Ecco, vabbè. Ecco, allora tu dicevi appunto che in qualche modo voi vi siete prodigati nel cercare di dare anche lavoro a qualcuno di quelli che sono venuti nella vostra squadra, ma anche appunto dicevamo anche di persone che sono sfuggite a condanne a morte nel loro paese, giusto? Sì, è il caso di Lamin, un ragazzo del Gambia che ha un papà che era oppositore del regime di quel paese ed è sfuggito appunto alla condanna che pendeva sulla sua testa, alla condanna di morte, ed è riuscito in qualche modo a raggiungere l'Italia come rifugiato politico. Il suo permesso di soggiorno sarebbe scaduto in pratica nel giro di pochi mesi, noi siamo riusciti a prolungarlo al di là di ogni termine e tenerlo con noi. Quanti sono i giocatori in questo momento? Cioè, quanti ragazzi avete in questo caso nella squadra? In rosa attualmente ne abbiamo 21, che proprio sono operativi e che dunque giocano nel campionato CSI. Senti, noi ti ringraziamo e ti dobbiamo salutare, però a questo punto noi terremo ancora ovviamente in considerazione. Diteci quando poi continuerete a giocare, quando è la prossima partita? Domenica, neve permettendo. L'ultima quanto come è nata? L'ultima risale a ottobre, novembre. Com'è andata l'ultima? 2-1 fuori casa. Avete perso o avete vinto? Salsa albanese rumena. Va bene, grazie, ciao Marco. Ciao, grazie a lei. Ciao. Vai porcenese. Chi non salta? Porcenese, beh. No, questo è contrario. Chi non salta? Facciamo così, andiamo prima con la pubblicità e il meteo, io preparo tutto e la facciamo dopo. Dai e vai. Nome? Valentino Rossi. Traduco per lei. Adam. Professione? Pilota. Sì, lo dico, è la mia nuova auto. Vale, quanto ti piace lei? Ma un sacco, lei lo sa. E a te, Adam, piace lui? Quindi, Vale, non discutete mai. Ogni tanto si accende. Vale, dai un bacione ad Adam. Certo che siete proprio uguali. Nuova Opel Adam, proprio come te. Infinite personalità, più la tua. Sabato e domenica. La mia auto, ibrida. La bici, a pedalata assistita. E adesso che hai un bambino? Facile. Mio Tronic di Poppa Pedretti. Il passeggino elettrico con la spinta assistita che rende la vita più comoda. E non solo in salita. Ah, ecco perché tua suocera non si lamenta più. Mio Tronic è appena nato ed è già un mito. Mio Tronic, il passeggino elettrico di Foppa Pedretti. Perché le belle idee non ci vengono solo di legno. www.foppapedretti.it. Dai e vai. Non è solo calcio. E se avesse sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni. In ogni caso. Altrimenti tutto è perduto. E già la mia amore. Questa è un po' la telefonata che hanno fatto a Grillo i senatori, no? Questa qua che vabbè, comunque è venuta così, non l'ho fatta apposta. No, però allora continuiamo a parlare ancora di Italia-Brasile. Elsa, pronto, da Treviso, giusto? Sì. Ciao Elsa, allora ciao. Qual è Italia-Brasile che ti ricordi? Del 94. E mi ricordo, ero ancora, lavoravo all'epoca, adesso sono una vecchia pensionata, mi ricordo perfettamente che era una domenica pomeriggio che stavo facendo le valigie perché il giorno dopo andavo in villeggiatura, sì. E mi ricordo il rigore di Baggio. Che ha sbagliato, sì. E aveva una fascia sulla uscita da un incidente e aveva una fasciatura sulla coscia destra. Sinistra, sì. Bacio, e ho detto subito: mamma mia, adesso lo sbaglio con quella fascia, infatti l'ha sbagliata. Ah, mamma mia. Quindi essa, possiamo dire che un po' di responsabilità ce l'hai anche tu su quel rigore, perché non ci credevi tu e Baggio ha sentito che non e ci credevi. Ho fatto la sì. Grazie Elsa, buona serata, grazie. Grazie altrettanto, arrivederci. Elsa da Treviso. Ciao, grazie. Ciao Elsa. Ciao. 1970, avevo 13 anni, niente tele in vacanza da Lassio. Ho capito che si perdeva dalle urla dei tedeschi vicino all'hotel Astra, che avevano perso con noi e tifavano Brasile. Però che soddisfazione, ma che soddisfazione, diciamocelo chiaramente. Sì, no, certo, va bene, poi dopo però. Ricordiamo che c'è una, come dire, non so come definirla, però una specie di marmo soprascritto alla Città del Messico, che la partita contro la Germania è stata la più bella partita del mondo, della storia del calcio, insomma. Anche se in realtà, per quello che ci si ricordi, è stata una partita di una noia mortale fino al 90°. Poi i supplementari sono stati spumeggianti, ma di per sé la partita erano bolliti come dei copertoni i giocatori. Ricordiamo che Città del Messico si gioca in altura, quindi c'era un problema di ossigenazione, poi c'erano delle tecniche di allenamento diverse da oggi, quindi forse per quello che non le abbiamo fatte male quelle, per questo che il Brasile ci ha piallato un po', no? Sì. Ecco, vabbè, comunque vabbè, poi dopo ci sono delle cose epiche, perché è bellissima, devo dire che la trovo bellissima, adesso intanto dovrei trovarla, però non la trovo più, non si trova in giro, ma forse c'è, è una foto di Beckenbauer con il braccio fasciato. Esatto. Devo dire che è un'immagine veramente incredibile, però stiamo parlando di un'altra partita, stiamo parlando della Germania, dobbiamo parlare del Brasile. Italia-Brasile, no? C'è giovedì 21 in quel di Ginevra, l'amichevole Italia-Brasile, stiamo ricordando le vostre Italie-Brasili. Ecco, il fratello prete di Burni ci spiegava perché si chiama Tarcisio. Anni il primo ricordo. Ah. Tarcisio un tot di anni prima ricordo. Ecco, però noi rimarremo così in questo dubbio e stanotte non riusciremo a dormire, però perché sai una cosa? Non ci ha detto perché Fabiana caso. Adesso piglia il suo telefono, fa il 349-238-6666, scrive un altro messaggino, ci spiega meglio quello che c'ha scritto, perché non si è capito un tubo. E risponderemo subito dopo Giovanni. Pronto Giovanni? Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Ciao. Dove quanti sei? Anni hai tu, tanto per iniziare? Allora, io ne purtroppo per me ne ho 51, sono... portati benissimo, guarda, è una voce di un ventenne, guarda, veramente incredibile. Intanto è finita Roma-Parma 2-0 per la Roma, dici? Allora, infatti mi avete fatto tornare giovane, perché all'epoca dell'82 che abbiamo vinto il mondiale facevo il militare, quindi in quel io ricordo del militare e questa avventura che ci ha accompagnato in quel periodo in particolare, insomma. Però e tu essendo militare non sei riuscito a festeggiare tanto, perché poi la sera quando sei andato a fare i bagordi probabilmente dovevi rientrare in caserma, no? Lo so, però mi ricordo che quei bagordi li abbiamo fatti con tutto il paese che, diciamo così, tra virgolette ci ospitava. Sì. Qui è stata una commissione tra militari e civili. Ma in divisa? Adesso non mi ricordo, mi chiedi troppo, però forse sì, guarda. Non ho capito perché ti sei tolto subito i vestiti, non ho capito. Cioè... Dov'eri, in che paese eri? Allora, come no, Cormons, Friuli. Porco cane, Cormons. Ecco, però. e quindi niente, però tu non ti ricordi, avete festeggiato col paese, ma non ti ricordi se eravate in divisa o se eravate borghesi. Memoria pessima, non mi ricordo un tubo. Sì, però ti ricordi che cosa di quell'Italia-Brasile? No, io non mi ricordo niente della partita, cioè di particolare non mi ricordo nulla. Sì. Mi avete svegliato il fatto che... quando c'era Italia-Brasile e quindi i mondiali in quel periodo ero militare. Ho capito, quindi ti ricordi più il tuo sergente in questo caso, che no? Presumo di non essere l'unico ragazzo che di aver passato quel periodo sotto un'aia. No, assolutamente, ma poi in particolare proprio quella partita. Grazie, ciao Giovanni, stacci bene. Un amico era a Napoli e mi racconta che dopo i festeggiamenti, finite le trasmissioni di Rai 3 Campania manda la replica della partita e dopo la gente è uscita nuovamente per fare i caroselli, cioè man mano hanno continuato in qualche modo, no, a festeggiare in questo caso. Va bene, però adesso di nuovo nuovo, di nuovo cambiamo di nuovo argomento, perché no, no, non cambieremo mai argomento in realtà, perché il calcio c'è, il dai e vai che manca, il dai e vai sì c'è in questo caso, il calcio c'è. Volevi dire qualcosa di particolare? Sì, no, ricordiamo che Roma-Parma è finita, mentre Torino-Lazio stanno ancora giocando, siamo al 43esimo perché hanno iniziato il secondo tempo un po' in ritardo, perché facevano un po', pulivano le righe. Torino 1, Lazio 0, 43esimo all'Olimpico, mentre Roma-Parma è finita 2-0. Calcio a 45 giri, chi è che non abbina tra l'altro al calcio anche della musica? Pensa tutti. Quanto dura il tempo di una partita di calcio? Sì. Quanti minuti sono? 90. No, un tempo. Ah, 45. E quanti sono i giri di un disco? Quanti anni hai, scusa? Cioè, ormai... No, purtroppo no. Quanti anni hai, scusa? Magari ne avessi 45. Non ci sono più 45 giri, cioè, non so come dirtelo in questo caso. Vabbè. Meno male che l'hai detto che facciamo il 78. Vabbè, senti, parliamo di autore di questo libro che è Calcio a 45 giri, quindi stiamo parlando di musica e di musiche. Il calcio, la musica poi è stata legata al calcio molto, ma molto di più di quello che sembra, molto di più. Ma basta soltanto il fatto che pensare che c'è gente che canta, no? In qualche modo. Ne parliamo con Riccardo Scannapiego. Pronto Riccardo? Pronto. Ciao. Come va? Ciao, tutto bene? Benissimo, sì. Senti... Oddio, ma benissimo, malissimo perché il Bologna ieri ha perso, quindi... No, va bene, no. Mi sembra perfetto, benissimo. Guarda, cioè, non... stai parlando con un tifoso della Juventus che non sono io, quindi se vuoi esternargli la tua soddisfazione... Io soffro solo per il Bologna, non parlo degli altri. Bravo. Ecco perché sei così triste. Ecco, vabbè. Senti, no, però la cosa che volevamo capire, io adesso ti faccio sentire un inno. Io ritengo che questo inno sia forse l'inno più bello che c'è, perlomeno in Italia. Proviamo? Sentiamo. Dai. Giallo russo e lo colore, come un sole e come un cuore, uno è fuoco e l'aura amore, che la gente cane a cantare. Giallo russo e lo colore, come un sole e come un cuore, uno è fuoco e l'aura amore, per un lecce che sta a scitare. Se non muoio a guai, tutto lo stadio con le mani all'aria, alzano due in segno di vittoria. Giallo lecce, e che una squadra seria, Giallo salente unita e gloria. Giallo russo e lo colore, come un sole, come un cuore, come un fuoco e l'aura amore, e la gente non è a cantare. Forza Lecce, canto mano sul dialetto, come la gente carria dello saletto, insieme a tutti i ragazzi che sono in campo, un limo corre da Mugalu, Lecce ha vinto. È duro che c'è dei problemi, noi stiamo sempre sereni, se in campo c'è dei 11 campioni, pronti in tutte le situazioni. Allora, forza Lecce, gioca Lecce, segna Lecce, vinci Lecce, noi in campo vogliamo 10 rocce. Sono cose che succedono, noi ci facciamo subito trasportare, come tu hai capito, da questo ritmo, che ne dici? Beh, un bellissimo inno, uno degli inni, diciamo, tra i pochi post mio libro, diciamo, come annata, perché io mi fermo al 90, sì, che ha un senso di esistere. Assieme a questo io abbinerei anche l'inno degli statuto del Torino, che è attualissimo, quindi diciamo sono tra i pochi casi in cui il mio libro ha queste cose. Cioè, gli statuto del Torino, quello dello statuto del Torino, sai che mi sfugge in questo caso? Si chiama Cuore Toro. Cuore Toro. Che però non c'è, perché tu nel sembra, libro... Sembra più una battuta di Abbattantuono, devo dirti, in questo caso. No, però non c'è nel libro, perché in realtà io fatto un lavoro archivistico da 59 al 90, esatto. Quindi logicamente... E perché tra l'altro il tuo libro, che come numero di pagine ne ha poche, perché sono circa una novantina. Una novantina, però ha un CD con 23 inni allegati. Esatto. Però in realtà tu hai fatto questo lavoro archivistico fino al 90, ma in realtà il boom degli inni è stato negli ultimi 10 o 15 anni. Cioè... Ma il discorso che io ho fatto era per studiare il fatto che venissero prodotti questi 45 giri, soprattutto in edizioni, diciamo, chiamiamole limitate, per club, bar, in cui venivano riproposte le canzoni cantate allo stadio in quel momento. Quindi a cui sono diventati inni veri e propri. Poi ci sono degli esempi vari, tipo Facchinetti con l'Atalanta, Stati col Bologna, certo. E altri sono rimasti dei canti che si sono persi poi negli anni. Questo è il modo per ricordarli, in pratica. È stato difficile riuscire a reperire il materiale? Diciamo difficile, io colleziono queste cose da ormai talmente tanti anni che per me è stato, diciamo, solamente un assemblaggio. Ah, sei malato, quindi... Sì, esatto. Quindi è stato un assemblaggio divertentissimo, perché ho potuto riascoltare cose che veramente non ascoltavo da tantissimo tempo. Forza Sampdoria, bellissimo, sì. Uno dei più belli inni della come sì. No, è bellissimo, cioè, è bellissimo. Vabbè, non devi dare scale, non fare gesti inutili perché tanto nessuno ti vede. In questo caso, bisogna spiegare che ogni tanto è in radio, quindi questo quando parla di Sampdoria perde un po' il passaggio. Scusa, vogliamo fare un po' questo passaggio con quelli del Torino, visto che poi mi dicono i miei amici torinisti che sono di parte, strano. Esatto, una par condicio, una par condicio. Sì. Insomma. Sono toro, sempre toro, cuore toro. Sono toro, sempre toro, cuore toro. Ecco, sarebbe interessante se avessero il fiato anche i giocatori del Toro quando giocano, perché i fiati non sono male qua, no? Però poi dopo fanno delle cose incredibili. Resta con noi Riccardo, resta con noi immobile, non ti muovere perché arriva il traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Nevica fino in pianura tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Le maggiori difficoltà in Liguria, dove sta nevicando abbondantemente tra Genova e Serravalle, sulla 7 e i camion vengono scortati. C'è neve anche sulla pianura piemontese e su quella lombarda. Nevica debolmente a Milano città. Sulla 7 Milano-Genova ricordiamo che permane la chiusura dello svincolo di Bereguardo in provincia di Pavia per un incidente avvenuto lo scorso mercoledì. Possono uscire solo gli automobilisti con telepass. Rimane chiuso anche il raccordo Bereguardo-Pavia per immettersi sulla 7 Milano-Genova. Ed è tutto, fate buon viaggio. Dai e vai, non è solo calcio. Eccoci di nuovo a te, visto che eravamo qui che stavamo cincischiando, stavamo già cantando inni su inni, in particolare quello del Genoa che ci illumina sempre l'immenso. È meraviglioso. Sì, vedi, senti, questo qua. Io li amo tutti ormai, sono proprio figli. Non riesco più a scindere, cioè. Ce n'è qualcuno che. È un amore verso un calcio che non c'è più, in realtà. In che senso? Nel senso che comunque il calcio cantato melodicamente in questi inni lo vedo un po' perso negli ultimi, diciamo, due decenni. Quindi probabilmente la mia voglia di ritornare indietro con le partite che vedevo faticosamente in televisione, il secondo tempi che passavano la domenica sera, insomma, tutte queste cose un po' nostalgiche, vero, però comunque che mi portano a momenti veramente eccitanti del calcio. Adesso lo seguo ancora perché non è possibile non seguirlo, però la sento in modo diverso. Però l'inno no, in questo caso è esploso quando, come dire, negli stadi si arrivava proprio in massa, cioè nel senso che quando c'era Celentano, per esempio, che cantava, eravamo allo stadio 100.000 allo stadio quel dì, in realtà non c'era l'inno, o c'era un inno? C'era un inno che passava però soltanto per i tifosi? È un inno di solito che passava dai megafoni dello stadio quando la squadra entrava in campo. Quindi è una cosa, una sorta di registrazione, e la gente ormai, imparando la memoria, lo cantava insieme al megafono. È un po' una sorta di ritualità, non so come dire, che si è un po' persa, perché adesso non è la società che sceglie l'inno, almeno così sembra di capire, quindi è un po' diverso. Beh, lì c'è stato il cambio vero dal punto di vista del rapporto con l'inno, possiamo definirlo il rapporto che c'è stato con Berlusconi. L'arrivo di Berlusconi ha in qualche modo cambiato il rapporto tra la squadra e l'inno, tanto perché si capiva... ha creato l'inno che tuttora è l'inno, creato lui. Sì, io tra l'altro... Lui con i suoi, diciamo, arrangiatori, autori. Non mi ricordo più chi era, se Martelli. Martelli Tony Renis. Esatto, Tony Renis prima di ripresentare tra l'altro il Festival di Sanremo era diventato appunto molto prima. Ecco, c'era, tra l'altro lì la cosa, mi ricordo questa roba abbastanza un po' strana, nel senso che quell'inno lì non era proprio riuscito benissimo, però era molto cantato, c'erano varie versioni e avevano messo anche proprio una versione da marcia militare, direi proprio terribile da quel punto di vista nella raccolta. Esiste anche un picture disc con varie, diciamo, take diversi dello stesso pezzo, così uno si sceglie quello che più gli piace, no? Che canta, ma non so neanche le parole. Dammi accendino! Parte l'antincendio qua nello studio, dai, te l'ho detto. Vabbè, sono cose che succedono, ogni tanto scattano questi meccanismi. È giusto, Senti, però la cosa che ti volevo chiedere, tu sai che noi così facciamo queste domande del tutto inutili e sappiamo già le risposte, ma noi te le facciamo lo stesso in questo caso. Ovviamente il libro è perfettamente inserito nel programma, quindi va bene, quasi inutile, diciamo. No, la cosa che ci interessa invece è capire, ricordiamo il libro che si chiama Calcio a 45 giri, edito Da Caratteri Mobili. Esatto. Scusate, sono intervenuto io. No, prego. Il sottotitolo è Un viaggio nel calcio attraverso gli inni delle squadre italiane col CD in omaggio. La differenza è che se lo segnaliamo noi è una segnalazione, se lo dici tu è marchetta, quindi smettila, esatto. Capito? Zitto lì, capito? Non dire queste cose. Allora, l'altra cosa che volevo invece dirti, volevo chiederti da questo punto di vista, è però il mondo della musica legata al calcio, che è forse la cosa più interessante, no? Cioè, sono molte cose interessanti in questo discorso, perché sono dei calciatori che cominciano a cantare l'amore per la loro, diciamo, squadra, la squadra che li ha adottati e comprati, li ha fatti diventare, diciamo, dei veri propri miti del pallone, sì, sì. E ci sono vari casi da tanti, positivo e negativo, da Juari a Ciccio Graziani, un pezzo su Trevor Francis, insomma ce ne sono veramente, da Paolo Rossi, Savoldi che ne fa tre addirittura di singoli. Beh, insomma, l'unione fra le due cose sono l'inno dell'Inter cantato dai giocatori dell'Inter, ad esempio. Esatto, Berti, sì. Quello è proprio, sono stato anche un ufficiale per un certo periodo. Potresti fare un capitolo a parte sul perché l'inno dell'Inter è così brutto? Quello di adesso? Sì, tra l'altro fatto da Elio, cioè voglio dire, cioè, no, ci sono in mezzo loro, cioè insomma mi sembra, cioè, ci aspettavamo qualcosa di più da loro, no? In questo passaggio. In realtà io vivendo adesso in Lombardia sto notando questa cosa, che c'è questa diatriba sull'inno dell'Inter, addirittura alcuni riproponevano l'inno dei Camaleonti, Cuore Nero Azzurro, sì. dell'84. Vabbè, ma sono Nero Azzurro terza età quello che ho proponendo questa cosa, non è proprio. Veramente bello come inno, solo che, capito, ognuno ha la sua idea, certo. Non so. No, però la cosa che a noi interessava, cioè in questo passaggio, è che in realtà il mondo del calcio, in particolare nel mondo, non soltanto in Italia ha sicuramente prodotto molte cose, ma è nel mondo che è la cosa forse più interessante. Basta soltanto ricordare dove e quando è nata la musica Rai, no? In qualche modo nessuno, pochi sanno che è nata nella curva della squadra di Orano, dove c'era un grandissimo musicista come Bellamù che quando entrava alla squadra faceva il tifo con la sua tromba, e da lì ha iniziato con una serie di ritmi che poi sono diventati sostanzialmente la musica Rai, con degli strumenti che non potevano essere usati. Vabbè, non entriamo in questo passaggio, sarebbe una storia lunga, sarebbe una storia lunghissima, però per far capire, no, poi dopo che cos'è stato Cheb Khaled e tutte queste persone che, certo. E però è nata da una storia, dallo stadio, senza contare anche altri passaggi, Latino America dedicate, musiche dedicate. Io volevo fare, in realtà io ho avuto un momento prima di uscire col libro che mi ero messo in testa di fare un libro che parlasse di tutto il mondo, poi mi sono reso conto che la follia era veramente vicina, quando mi sono accorto che erano miliardi di dischi, sì, però, per non parlare del Boca Junior, certo. Delle squadre argentine che ogni coppa che vincono facevano un singolo, quindi praticamente è una costante. Ricky, forse mi sono spiegato male, che non parlavo già più del tuo libro, volevo parlare di del prossimo libro che tu farai, e questo è l'elemento di base, capito? Okay, in questo passaggio. Okay. Ecco, io vorrei chiedere, tra l'altro, dall'altra parte del vetro, al nostro assistente, alla nostra redazione, e volevo capire com'è che si chiamava quel gruppo di Venezia che suonava e che cantava reggae sugli spalti. In Pittura Fresca, ovviamente, mi segnalano, anche lì aveva fatto un piccolo inno non indifferente, anche da quel punto di vista, sempre restando poi sulla parte italiana. Noi l'unica cosa che possiamo fare, caro Riccardo, è non farti più parlare, prima cosa, come hai notato. La seconda cosa è salutarti. La terza cosa, quando tu avrai il prossimo libro, ti porteremo qua, ci porterai anche tutti i dischi. Tutti. O i CD, va per l'occasione i CD. In questo caso, e ti salutiamo con la canzone che invece per noi in questo momento è ancora, ormai da tempo, la canzone dedicata, l'unica vera canzone da utilizzare durante le trasmissioni. Ciao! Guardalo! Adesso è nudo, come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, suo linguaggio crudo, le trame oscure, tutta la merda viene a galla. Palla, per una palla, tu t'eri innamorata, dolcissima fanciulla. Di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, compiato ed addestrato per la calcia ad un pallone. Allora balla per me, bellina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina, balla, piange sulla mia spalla, dai sopra il tuo dolore. Balla per me, bellina, balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me, bellina, balla. pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso, che si è rotto il guscio, il tuo cugino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva, ripartenze, crollano le apparenze, andiamo dita al succo, fuori il trucco, qualcuno sta parando, è il grande vecchio che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla, nalina, nalina, balla, che balla dopo balla. Ci suggeriscono anche Roma, sì, ovviamente il coro che tutte le volte accoglie la squadra romanista e che mette i brividi, e oggettivamente mette molti brividi. Però è diverso dal dire che, siccome da 30 anni che c'è questa, sì, perché in realtà venditi già da allora, esatto, cioè, non è chiaro se la canzone sia nata come inno, molto più probabilmente è nata come canzone e poi è stata assunta come inno, ma questo a prescindere è diventato sicuramente l'inno. Però attenzione a non confondere tra la bellezza dell'inno, no, e l'affezione che c'è verso quell'inno, sono due cose completamente diverse. L'inno magari fa veramente ribrezzo, ma però siccome la sentiamo da 50 anni, questo, no? Sì, qualsiasi quelle un po' Savoia, quelle un po' così, sì, sì, marcette, perché una volta andavano negli anni 50-60, cioè, andavano molto le marcette, sì. Queste cose un po' strane, no? Queste cose siccome le sentiamo da quando eravamo piccoli, ecco che diventano per noi delle cose essenziali, diventano assolutamente dei momenti importanti. Però in questo Cassaggio niente di particolare, Roma è sicuramente una di queste. Perché allo stadio, quando c'è il coro Roma Roma Roma, abbassano la musica e fanno cantare, e allora balla, perché Lina balla, no, niente, scherzavo, no, niente, vabbè. Comunque ringraziamo intanto Roberto Scaltritti, che è stato al mixer e si è dovuto assorbire tutte queste canzoncine dedicate ai vari, per me in particolare quella della Sampdoria, che è stata apprezzato molto. Grazie Roberto, che lo vedo entusiasta, ti passo poi il file tranquillo sulla chiavetta. Innervosito Giorgio De Luca, l'assistente al programma, perché non abbiamo fatto sentire l'inno del Napoli, che non c'è, non esiste, ma come no? Sì, quello, dai. Vabbè, però la cantano tutti, se non la cantano loro, scusa, la canta un soldato innamorato, lo cantano loro tutti quanti, è bellissima, però devo dire, cioè non si può dire che però non è stata fatta proprio per il Napoli da quel punto di vista. Luca Cancellara, mi dispiace, i Pittura Fresca sono ormai spariti dalla circolazione, questo purtroppo è un limite sicuramente. Per fortuna abbiamo fatto soltanto sentire poche momenti della Sampdoria, no? In questo caso con per Luca Gattuso, Doria, e invece abbiamo sentito anche troppo Juve Unico Grande Amore con Sergio Ferentino. Non abbastanza, ti direi. Io comunque a questo punto lascerei il tutto sempre con l'unico inno che a noi ci piace di più. Grazie, a risentirci domenica. Como un sudor, como un cuore, uno è fuego e l'aura amore, che la gente cane a cantare, giallo russo e lupurure, como un sudor, como un cuore, uno è fuego e l'aura amore, per un lecce da strascicare. Se muoia vai, tutto lo stadio con le mani all'aria, alzano e do in segno di vittoria, un lecce, ed è una squadra seria, dallo salento unita e gloria, giallo russo e lupurure, como un sudor, gente che a cantare. Sine, forza Lecce, canto mano su Violetto, come la gente carria dello Salento, insieme a tutti i ragazzi che sono in campo, un libro corre da Mugalu, Lecce ha vinto. E pure non c'è dei problemi, noi stiamo sempre sereni, se in campo c'è dei 11 campioni, pronti in tutte le situazioni. Allora, forza Lecce, gioca Lecce, segna Lecce, vinci Lecce, noi in campo vogliamo 11 rocce, sulle fasce del nimudo frecce, lupo tiene le baradute, per la difesa lo gioco riparte, muoio verso la porta avversaria, Lucenzo Camboria in giallaria, Lucenzo avanti via. Se il tuo lavoro ha bisogno di uno scatto di qualità, affidati a quella più alta in circolazione. Scopri il Renault Trafic e Renault Master con clima, radio CD, MP3 e viva voce Bluetooth da 14.000 euro. Oppure scegli tutta la serenità di 5 anni di manutenzione e di assicurazione furto e incendio con l'esclusivo leasing 0,99 da 239 euro al mese. Salvo approvazione Finrenault. Fogli informativi in concessionaria. Veicoli commerciali Renault, numeri 1 in Europa dal 1998. Ti aspettiamo sabato e domenica.